La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ascolta, è perché vuole credibilità, vi crede, perché vi vuole bene, perché vi si affeziona a voi, perché non può sentire altre parti dove tutto è leccato, invece qui culo è culo, capito? Questo è. Certo, lo so che la Zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio, lo so benissimo, lo so Cruciani che tu non sei Giannino. Non sei Barisoni! Ragazzi, una piccola cosa su quello che è successo nel weekend con Valentino Rossi, perché ne parla tutta Italia, poi dite il cazzo che volete, non c'è problema. Ma tu, Parenzo, non hai visto nulla, naturalmente, no? Perché te le cose popolari non ti piacciono, le cose che guardano tutti non ti piacciono, naturalmente, no? No, ho seguito, ma che ti frega, sì, a te il modo mondiale, la gente che parla nei bar di Valentino Rossi, no, di Marquez, di Pedrosa. Marquez, conosco lo scrittore, Marquez. Sì, appunto, tu conosci Marquez, lo scrittore, pensate. Poi come cosa stiamo ho fatto messi del weekend? Niente, ho letto il libro di Nuzzi. Pensate come stai invece. Cioè, non hai visto il moto mondiale, che no, hanno visto tutti. No, questo nel modo più assoluto. Sì, anzi, e te ne vanti pure, e te ne vanti pure. Assolutamente, ho acceso il camino. Netto, sì, perché sì, la stagione invernale è ufficialmente cominciata. Ma veramente fa un caldo della Madonna, come stai a dire? A Milano sembra primavera. Sembra primavera. Io l'ho acceso lo stesso. Ho acceso il caminetto. Che no, me ne frega, ho acceso, no, il caminetto. Acceso il caminetto, che te sei fatto? Ho cucinato le castagne e mi sono letto un po' di libri. E ho, cioè, la vera differenza più... è questa, ma anche la tua sì, forza, diciamo. Tu sì, te ne fotti. C'è il moto mondiale, totalmente, parla tutta Italia, Valentino totalmente Rossi, Marquez, eccetera, Marquez, tutti scatenati. Marquez, ti ripeto, conosco. Sì, conosci lo scrittore. Lo scrittore. Io voglio dire solo una cosa, io sto contro l'antipatia dei due spagnoli, sto dalla parte di Valentino Rossi tutta la vita, però, ragazzi, una cosa diciamola, la vogliamo dire la grande cazzata che ha fatto, tecnica che ha fatto Valentino Rossi? Dov'è che ha perso il mondiale Valentino Rossi? Cioè, sto, me l'hanno spiegato tutti gli esperti, amici miei di motociclismo, che sono tantissimi. Quando ha fatto quella minchiata entrando nei box a Misano, dov'era? Cioè, a Misano. Cioè, questa è l'origine di tutti i mali, perché avesse avuto più punti probabilmente non ci sarebbe stato nessun problema. Questa è la realtà. Poi adesso scatenatevi, dite quello che volete su quello che avete visto. Ma Rossi, sono Marquez, problemi, eccetera. Ma sono problemi seri, ma tu... Ma perché il problema problemi è che cos'è? La nascita della sinistra italiana? Sì, no, la ecco, sinistra no, italiana, ecco, amico mio? No, io no, devo no, dirti una cosa, ho una grande difficoltà a capire chi è a sinistra di Renzi, perché c'è, a parte sì, i comunisti, quelli che si professano ancora comunisti, sì, poi ci sono questi qua che sono nati adesso, no? Sinistra italiana, fuoriusciti sì, dal PD. Un nome anche originale, ma no? Ma sinistra italiana, vabbè, sti cazzi. Sì. Poi c'è Podemos. Poi c'è appunto Civati, che è contro di loro, che è contro di loro. Duca, c'è Civati, che era anche lui nel PD. E che è contro questi qua, Fassina and Company. Non si capisce dov'è finita la FIOM. Non si capisce dove è finita la FIOM. No, la FIOM è dentro, mi pare. Ma no, ma non di... si sa bene, perché Landini non l'ha detto. Cioè, tu capisci bene che questi Landini quasi... Landini non lo ha detto. No, ma appunto, cioè, tu capisci che è un delirio, capito, no? Che è un beh, delirio. Anche quelli sono problemi, Voci dalla manifestazione leghista a Bologna. Questo è interessante. Voci dalla interessante manifestazione leghista a Bologna. Partiamo con che cosa? Con Gianluca Buonanno, sì, che è stato un po', si è avvicinato ai contestatori e ovviamente si è creato un piccolo parapiglia, sì, con la polizia intorno, che, di... Perché questa è radio, vabbè, è normale che... E non, no, normale è un cazzo. Ma è normale e non si la vede polizia, perché scusa, è radio. Ma no? Che vuoi? Che uno va là a farsi picchiare dei centri sociali? Scusa. No, amico mio, ma fai il bulletto, vai senza la polizia. No, dai. Vai senza la polizia, magari armato con la tua pistola. No, su, vai, dai. Vai a creare casino in mezzo a quelli che fanno zizzanie, per comunque, carità. Ragazzi, no, la realtà è che... Con la polizia? La realtà è matto, che questi qua che hanno... Persino Harry De Luca si è scagliato contro quelli ma che hanno sì, fatto il sabotaggio, certo, sull'alta velocità. Ma questi certo che hanno... sono andati in piazza a Bologna per manifestare contro, sono dei coglioni, dai, sono degli imbecilli, punto e basta, dai, diciamola chiaro, sono dei cretini, degli imbecilli. Comunque c'è Buonanno, sentiamo. Perché devono bruciare i cavi per non far arrivare i treni o bruciare i cassonetti o dire che non siamo degni di venire a Bologna? Chi parla così è uno stronzo, i centri sociali andrebbero aboliti. scritto la rete antifascista, ma andassero a pigliarselo nel culo, altro che antifascisti. Che andassero a prendersela nel culo. Buon anno numero uno sempre. Sì, sempre circondato dalla polizia, eh. Vabbè, ma è normale che uno va là, no, circondato dalla polizia, no. Dai, su. Vai lì a fare il ganzo, dai, il bulletto. Su. Senti, però vai lì, avviso aperto, ma da no, questi, dai, qui. Dai, su. Vai su. Da questi qua, avviso aperto. Senti, su, Berlusconi, vediamo. Che aveva una che due anni fa, non cent'anni fa, il si è messo zio, d'accordo con Renzi. Adesso dice di tutti i colori. Sì. Guarda che la politica è incredibile. Ci sono delle giravolte vergognose in politica. Berlusconi sostanzialmente fece un accordo con Renzi che si chiamava il patto del Nazareno, molti non l'hanno dimenticato. Dubbio. Adesso dice che è come il duce. Ci sarà un solo partito che avrà un solo duce e sarà questo signore mai eletto. Non siamo più una vera democrazia, ma quello sarebbe addirittura un regime. Un regime! Quello sarebbe un regime. Mamma. Ma ragazzi, ma la ridicolaggine non ha mai fine. Cioè, Berlusconi che critica Renzi perché si vuole prendere tutto è il massimo del ridicolo. Io non ho mai visto una cosa più ridicola di questa. Mai, mai, mai nella mia vita, ti giuro. Cioè, uno può anche cambiare cose, opinione politica, ma una cosa più ridicola di questa non l'ho mai sentita. Sì. Mai. Oh, qualche cosa su Vaticano e dintorni. Questa è molto bella, questa è molto molto bella. Poi ti farò sentire un Paolo Brosio contro Nuzzi, contro sì, Gianluigi. È stupendo. Paolo Brosio che attacca Nuzzi, il che è tutto dire, amici miei, eh. Allora, Luigi Amicone, molti di voi non sanno chi è questo Luigi Amicone, è uno ultracattolico della rivista Tempi, eccetera. Il quale, senti un po', questo dovresti portare in tribunale. Non lo fai? Non quelli che chiamano e si proclamano nazisti. Questo dovresti portare in tribunale. Senti. Il vecchio Gigi Amicone. Senti che dice. Nessuno va a sentire cosa ha da dire Pell, che ha spiegato al centesimo cosa sono quei 500.000 euro. Luigi. Ma non si dicono queste cose. Perché? Perché bisogna fare la stessa operazione che Goebbels ha fatto con gli ebrei. Ma non è una cosa. Sembra un po' eccessivo. Massacrare. Cioè, praticamente sta dicendo che i giornalisti, la stampa, non so sì, chi sono come fanno come Goebbels contro gli ebrei. Cioè, gli ebrei sarebbero la Chiesa in questo caso. E dall'altra parte ci sarebbe Goebbels impersonato. Sarebbero oggi. I perseguitati. Dai, ma porta in tribunale lui. E invece di portare in tribunale quattro stronzi. Questa che mi pare dai. Una iperbole sciocca detta da Amicone. Ma comunque, la cosa più bella che ho sentito nei giorni scorsi, che mi ero anche dimenticato di farvela sentire, è Carminati. Ragazzi, 30 secondi, poi andiamo con Salvini oggi. 30 secondi di Carminati. Salvini è il leader della Lega, no? Sì, leader. Dopo della che Lega. Non c'è mai né in televisione né. Ma non dire stronzato, lo inviti sempre pure te, non fare l'ipocrita, dai. Io voglio e bene allora a Salvini. Allora non rompere come i a Dell'Utri, ti ricordi quando dissi io, David Parenzo? Voglio bene a Salvini, vabbè. Sì, d'accordo. No, bene, no, scherzo. Ma gli vuoi bene perché normalmente attacchi gli altri leghisti, non hai il coraggio di attaccare. Voglio, non ho il coraggio di attaccarlo, no, non voglio danneggiarlo. Non lo attacchi mai. Carminati. Come si chiama? Quando voi dovete chiamare un operatore telefonico, vi siete incazzati, no? Cioè, voi siete fuori di testa perché non vi rimettono il telefono, si è rotto, fast web non funziona, un altro operatore di internet non funziona, fate come Carminati, vi prego. Sicuramente vi danno ascolto. Anzi, mandate in onda questa roba qui. Oh, senti, ascolta a me. Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Io sono quello che abita là. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Massimo Carminati, segnalo così, vai su internet e vedi chi sono io, capito? Segna questo nome, ascolta a me, segna questo nome, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Ma ragazzi, è meraviglioso. Francesco. Cioè, io voglio prendere da lui, però, perché spesso ti fanno girare i coglioni, no? Ti fanno girare le palle quando chiami al telefono. Bisogna fare come lui. Cioè, vai a vedere chi sono io, e poi te vengo a prendere a te. Stupendo. Vabbè, è orribile, ovviamente, non è stupendo. È stupendo, come dire, perché fa capire, è stupendo il documento. Perché fa questo capire. È chiaro, no? Chiaro. Io per carità, mi arrabbio, però. Vai a vedere chi sono io, Matteo Salvini. Ciao. Ciao, buon lunedì, buona serata a tutti. Mi dicono che non sei messo bene, che è successo? Mi riferiscono no, che... un po' di stanchezza, ma ci sta. Ma certo. Ma solo stanchezza, nient'altro? Sì, sì, nient'altro. Nient'altro, problemi vari, no? No, stia tranquillo, prostata, Parenzo, sì. Ci avrà sul groppone ancora per un po'. Lo so. No, pensavo alla prostata, sai, a 42 anni. Allora, io devo... No, che no, perché la prostata... Perché? No. Ma scusa un attimo, ma no, perché devi... Chiarisco l'equivoco, se no non si capisce veramente, non auguro né da nessuno. Anzi, Matteo, ma cioè, conosco... stai augurando la prostata? No, giuro di no, lo conosco da 15 anni, abbiamo combattuto su fronti diversi, gli voglio anche bene, perché lo conosco fin da quando era piccolo in consiglio comunale. Dove hai combattuto? Eravamo insieme alla gabbia l'altra volta, mercoledì. E prima di andare in onda parlammo col dottor Feltri di prostata. E quindi io dissi, siccome avevo appena fatto un check-up, che la dottoressa... Ma c'hai 39 anni, che ti sei fatto il check-up alla prostata? Ok, 40 anni... No, la prostata non l'ho fatto. A un certo punto la dottoressa si è messa un guanto. E mi ha detto, sì, chi? Dico, scusi, dottoressa, che cosa sta facendo? Vabbè, ma è normale, dice, dottore, scusa. Lei tra qualche mese compie 40 anni, quindi facciamo la prostata. Messo il dito al culo? Assolutamente no, quindi non ho fatto la prostata. Interviene Salvini, che era lì interessatissimo, e mi dice, no, io si può dire... No, è un dato sensibile. Quindi beh, non si può dire, credo. Se vuole, cioè, lo dice lui. Ma che cos'è? Che hai fatto, Matteo? Dati, scusa, sensibili non li dico. Ma non penso che interessi a tanti il fatto che tu sia andato al policlinico perché aveva avuto dei calcoli renali, non so se possa essere oggetto di dibattito. Io purtroppo, Matteo, purtroppo ogni tanto mi affido a Parenzo, che parte per la tangente per le sue cose, dunque non so cosa volesse dire in questo caso. No, che abbiamo chiacchierato prima della messa in onda di questa prostata, e quindi niente. Ma non ha, diciamo, hai augurato la prostata? No, assolutamente, questo te lo giuro. Io però... E Feltri ha detto, se non ti fai mettere un dito al culo, ha detto sì, esattamente, diceva, no, guarda, è un'esperienza da provare. Vabbè, quello in generale stava dicendo. Io dicevo, guarda, direttore, anche no, vabbè, adesso è inutile, perché poi mi accusi, no? Vai sempre sugli stessi argomenti, il sesso, cioè poi no, sei stato tu a tirarlo fuori stavolta, cioè, certo, ecco, appunto, no, il dito al culo, cioè. No, però no, non io volevo dito, chiedere dito a Salvini, allora, nel luglio del 2012, siccome ieri eri sul palco con Berlusconi, hai scritto, nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi, eccetera eccetera. Berlusconi condannato a 4 anni. Adesso sono curioso di sentire come faranno i compagni del PD, sia in Parlamento che su Facebook, a giustificare il fatto che sono al governo con un condannato. Poi adesso siete di nuovo pappe ciccia. C'è una dici, sono passati luglio 2012, Berlusconi era al governo col PD. Chiaro che essendo la Lega all'opposizione, a domanda, ma tu ti alleeresti con Berlusconi? Dico, no, evidentemente no. Avendo creato il governo Monti, avendo votato la legge Fornero, avendo sostenuto il governo Letta, sostenendo riforme assolutamente dannose per l'Italia, dal mio punto di vista è la Fornero. Però più volte, Matteo, tu hai detto con Berlusconi mai più, basta Berlusconi, è finita un'epoca. Era in maggioranza, è chiaro che se anche Berlusconi... dopo, anche quando ha litigato con Renzi, tu hai detto comunque Berlusconi è finito, dai, adesso è per necessità. Secondo me, adesso bocce ferme, lascia stare Berlusconi, Alfano, sulle cose da fare oggi, 9 novembre 2015, io mi metterei d'accordo anche con Grillo, anche con Fassina. Non mi interessa se uno è a destra, a sinistra. Beh, però una coalizione con qualcuno la devi fare sul palco, non è che sei andato con Fassina e con Grillo, no, sei andato con la Meloni e con Berlusconi. Devi condividere almeno il 90% del programma. Lo sai perché te lo chiedo? Perché Radio Padania oggi, noi sai che siamo sempre attenti osservatori, bravi, ascoltatori di bravi, Radio Padania, bravi. Abbiamo sentito, e anche sotto al palco nelle varie interviste, c'è la base della Lega. Berlusconi, non dico che lo impiccherebbe, ma non ne può più, ma li fa schifo, ma come no? Magari gli fa più schifo Renzi, però Berlusconi siamo lì quasi, siamo lì. La Meloni no. No, ma guarda, sul fatto che in passato abbiamo commesso degli errori, tutti, mi ci metto anch'io, sul fatto che il centrodestra che stravinse in passato non fece tutto quello che voleva, doveva e poteva, è chiaro ed evidente a tutti, altrimenti non avremmo perso le elezioni. Per questo che io dico, qualunque cosa nasce. Cioè, ma Berlusconi che ruolo deve avere? Che ruolo deve avere? Padre nobile, vecchio zio. Che cosa? Ma che vecchio zio? Che ne so, cioè, che fa le castagne a casa di Parenzo mentre lui legge i libri. Ma che ne so, tipo il vecchio, tipo Gelli, che si invitano per forza. Rappresenta ancora alcuni milioni di italiani. Dunque non se ne può fare a meno, In questo momento, secondo me, il problema dell'Italia è che Renzi la fa passeggiare. Mentre fa il fenomeno in Arabia Saudita, l'Italia riparte. Però tu dici... Noi cresciamo dello 0,8, il Marocco cresce del 5. Vabbè, adesso il modello non può essere Marocco. Secondo me le ricette Marocco, economiche di Renzi sono pessime, e non parliamo dell'immigrazione, del tessuto sociale. Anzi, faccio i complimenti a Radio 24, sentivo che finalmente date voce anche ai disabili. Quello di cui non si occupa. Abbiamo sempre fatto mille programmi sui disabili, però voglio capire una cosa. Berlusconi, allora, gioco forza, nonostante il fatto che un po' puzza, serve? No, perché puzza? Che ne so, distantio, di vecchio, ma io non è mio. Antico. Diciamo che il Berlusconi, che era alleato di Monti e di Renzi, ovviamente non aveva alcuna possibilità di dialogare con la Lega a livello nazionale. Cioè, rappresenta alcuni milioni di voti, in questo momento la Lega non ne può fare a meno. È così. Non la Lega, il problema dell'Italia non è che vabbè, la Lega... ho capito voi, ma è l'alleanza, aspetta un attimo che c'è il traffico. Io devo prendere un voto più di Renzi, è questo che ti dico. E quindi va bene la Meloni, quindi va bene Berlusconi, ma soprattutto va bene la tanta gente di centrodestra che non vota più da anni perché li abbiamo delusi. Va e bene, quindi fermo. Se siamo un po' più seri li recuperiamo. Fermo lì. Traffico veicolare. La Zanzara. Allora, giustamente mi segnalano però, Salvini, a proposito dell'alleanza con Berlusconi, l'alleanza, insomma, di questo patto con Berlusconi, che siccome tu attacchi da sempre in maniera anche fortissima, in maniera virulenta... Il patto Roma-Berlino. No, dai. La legge... Sì, patto Roma-Berlino. Patto che, Roma-Berlino, cioè, che sarebbe Hitler? Ribbentrop-Molotov, un patto simile. Ma non dire strozzate, dai. La legge Fornero fu approvata con i voti di Berlusconi. Te sì, lo segnalo, esatto, l'ho ricordato prima. No, beh, ho capito, però voglio dire, tu dici che la legge Fornero è stata... Poi cambiarono idea... E ci diedero una mano a raccogliere le firme per fare il referendum. Quindi anche Alfano può cambiare idea. Quindi anche il tuo amico Alfano. Ma perfino Parenzo può cambiare idea. Se Alfano domani mattina si svegliasse e diventasse improvvisamente normale, bloccasse normale? Un po' di immigrazione clandestina, espellesse qualche finto profugo. Ma perché non è normale secondo te? Non è un uomo normale secondo te? Non è un ministro dell'interno all'altezza. Vabbè, quello lo sappiamo. Ma quando i poliziotti si devono comprare i pantaloni e le magliette per andare in giro a fare... Ma quello anche pubblico. Gli altri governi, dai, cioè, è una protesta che c'è sempre stata. In queste condizioni dai. Non sono mai stati. Fate chiamare un poliziotto qualunque in questo momento all'ascolto della Zanzara. Guarda, le proteste della polizia, le proteste della polizia, da quando io faccio questo mestiere, da 20 anni, ci sono sempre state. Giustamente, un conto è giustamente. Chiedere l'aumento dello stipendio, lo sblocco degli straordinari, tutto giusto. Un conto è doversi pagare i pantaloni perché non ci sono in caserma. Vabbè, ma ti ha dato del qua qua qua, hai visto? Te li devi comprare. Ti ha dato del qua qua qua, del qua qua qua. Poi sbagliando vabbè, anche citazione. Ripeto, io aspetto solo di poter prendere un giorno il posto di Alfano per 3 mesi e di dimostrare agli italiani che si può fare chiudi, non miracoli. Chiudi tutti i centri sociali? Si può fare. Chiudi tutti i centri sociali. Non è l'emergenza, anche se ovviamente i centri sociali abusivi in un paese civile non ci sono, soprattutto non vanno a prendere a randellate la polizia e non trovano qualche giudice che dopo 12 ore li fa uscire in mezzo alla strada perché non mi dunque, sembra non, una roba non, normale. Non vanno sgomberati subito, se tu fossi ministro degli interni non sgombereresti subito tutti diciamo i centri sociali. Diciamo che non sarebbe la mia priorità, fossi ministro dell'interno, visto che ci sono sul territorio nazionale almeno 300.000 immigrati clandestini, non tutti in una volta, ma qualche migliaia comincerei a rispedirli da dove sono venuti. Senti, il giudice che ha condannato Mattielli, come lo consideri? Il giudice che ha condannato Mattielli, che è morto, il povero Hermes Mattielli, eccetera. Di cui ci sono stati oggi i funerali e li porgo assolutamente anche l'ultimo noi. Omaggio. Anche noi? Dicono i giudici applicano la legge, quindi evidentemente avrà applicato, secondo me, in maniera sbagliata una legge che va cambiata. E guarda caso, ma lui personalmente come lo giudichi questo signore? No, non attacco la persona, non lo conosco, non lo so. Se ha potuto condannare a 5 anni e 4 mesi di galera un poveretto che si è difeso da 2 rapinatori, evidentemente è sbagliata la legge, anche il giudice un po' di buon senso in più avrebbe potuto usarlo. Però girano questa settimana, sui... così ogni tanto ci rendiamo anche utili, guarda che caso, dopo la manifestazione questa settimana finalmente la Camera parlerà del progetto di legge sulla legittima difesa della Lega, fermo da 9 mesi. Vediamo. Senti, vabbè, le frasi di Berlusconi del 2012, hai detto che sono cambiati i tempi sostanzialmente. Era il governo nel 2012, è chiaro che non è che avessi tanta simpatia per qualcuno che stava governando. Sì, però diciamo la verità, cioè, anche lì c'è una bella... Cioè... Poi io guardo al futuro, se uno pensa alla riedizione... Ma del a proposito, passato, Guccini, Lega, non è che ti piace anche Guccini, no? Come cantante? Sì, a lui sembra. Guccini mi piace un sacco. Guccini. Come fa una canzone? Cantami una canzone di Guccini. La canzone delle osterie di Fuori come Porta. Fa? Come fa? No, ma sono stonato con vai, una campana. Vai, 10 secondi. La locomotiva. Come fa? Auschwitz. Come fa? Dio è morto, ecco, questo sì, potremmo dedicarlo a Parenzo. Come fa? Dai, ma per Matteo, me non è morto per aperte niente. Come un tempo le osterie di Fuori Porta. Com'è? Ma la gente che ci andava a bere fuori dentro è tutta morta. Beh, però ha detto una cazzata. Ce la sai, ma su questo non c'è dubbio. Guarda, resistere alle provocazioni di Salvini, questa è una boiata inaudita. No, lo... Anche Parenzo lo può dire. Alla resistenza contro una manifestazione democratica. Hai inneggiato alla resistenza, Guccini, alla resistenza contro Salvini. Fermo a 70 anni fa. Parenzo, ammetti questa cosa. Io dico che quella gazzarra in Vereconda andata in scena da quei quattro, no, ma quello che lascia bene, puttanata, quello che ha detto Guccini, quello che ha detto Guccini a Bologna come a, no, Mugello, ma quello che ha detto Guccini, ti prego, quello che ha detto Guccini, perché non dai una, cioè, bella... è una resistenza politica, quello sicuro, ma anch'io mi oppongo, ma perché a non devi dire che ha detto una puttanata, ma Guccini? È una ma adesso la parola resistenza, fare opposizione a Salvini e alle quello... sue ruspe, questo è quello cosa buona e giusta, non c'è dubbio. In democrazia, non andando al comizio, stando a casa, dando via dei volantini, non prendendo bastonate a bombe, no, carte, cioè, i politici, da, da giovane, sono da giovane, criminali, da giovane, criminali, da ex, no, da... no, no, quelli che hanno bast... quelli che sono, vabbè, andati, sappiamo, in piazza in quel modo sono dei criminali, non, allora, c'entra la politica, Matteo, criminali. Da giovane tu eri un gran fan di Guccini, certo, non solo ai concerti, ma ancora adesso non è che cambi gusti musicali, Guccini, De André, De Gregori, sì, Dalla, Battisti, Vasco, e questa è la, vabbè, musica che mi piace. Ciao, a presto, ciao, ciao, ciao. La Zanzara. Buonasera, buonasera, vivo io bene anch'io a tutte e due, nonostante quello che sto per dire. Allora, io lo ascolto da tanti anni, penso sempre una cosa: alla Zanzara ci vorrebbe una figa figlia di mignotta come a te, Cruciani. Ragazzi, ci vorrebbe la sigletta Italia paese di merda qui, eh? Ci vorrebbe questa sigletta, anzi lanciamola, va. Lanciamola. È tanto tempo che non sento questa sigletta di una rubrica che abbiamo dimenticato, perché voi non ci segnalate più una mazza, perché Parenzo non fa più niente. Niente, niente. Niente, non c'è nessuno che fa niente, io non è che posso fare tutto da solo. E dunque, sigla, perché senti, ho trovato quei una... vecchi zighe, sì, si, sì, esatto, un vecchio rincoglionito, sì, bravo, bravo, esatto. No, nonne, no, no. No, non sono mai rincoglionito. Beh, sì, alcune sono rincoglionite, ma anche, no, ma anche a 40 anni si può essere rincoglioniti, eh? Cioè, non sì, è che bisogna... Invece quelle vecchie zie che dicono "non mi fa chiami mai". Esatto, bravo. Italia paese di merda. Italia paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano. Allora ragazzi, fatevi venire, non un'incazzatura, la bile, vi dovete incazzare come bestie. Allora, voi sapete che i debiti dell'unità, dell'unità, amico, bravo, mio, sì, i debiti dell'unità sono stati pagati con i soldi vostri. Sì. Cioè l'unità, un giornale, per carità, va benissimo, eccetera, entra in crisi e tutti dicono bisogna salvare, eccetera. A un certo punto bisogna pagare dei debiti, 107 milioni della vecchia, sì, gestione. Bravo, 107, sì, milioni. Sì. Una piccola legge fatta durante il governo Prodi, ha garantito che con questi soldi... Con calma, tranquillità. No, ma... Beh, no, tranquillità. Serenità, abbiamo stanziato dei soldini, con calma. Appunto. Per salvare un giornale. Beh, no, amico mio. Fondato da Antonio Gramsci. Beh, calma. Ma no, con grande calma. Grande serenità, silenzio. Ma no, astuto, sono... Si è scoperto oggi con grande silenzio. Ho capito, calma. Ma con calma ce l'avete non buttato. Dirò neanche serenità, ma no, napoletano, come come serenità, grande calma, l'unità, giornale importante, salvato con soldi pubblici, grande calma. 107 milioni, una legge varata nel 98, sì, dal governo, sì, Prodi, che ha introdotto la garanzia statale sui debiti dei giornali di partito. Sì, cioè, io dico, ma se no, questo uno... è sbagliato, lo dico anch'io. No, ma meno male. Cioè, meno male, perché tu, altrimenti no, ti avrei mangiato. No, però tu sai che solo per il finanziamento pubblico, no, del partito. Ma quello non me ne frega niente, perché se sei a favore del finanziamento pubblico o contro, sì, quello è un dubbio. Altro discorso. Se uno fallisce, se il giornale non funziona, già ti abbiamo dato i soldi per vivere. Sì, no, è già dubbio, una follia questa. Giusto, giusto. In più, hai dei debiti, questo li dobbiamo pagare noi. Ma dai, su. Con calma, però. Ma no, ma con calma ce l'avete buttato. Culo, però. Senza questa acrimonia, acrimonia, col burro, con calma, nel silenzio. Con la chitarra in mano. Vabbè, ragazzi. Grazie. 800240024. Andiamo a Verona, Lucio, vai, vai Lucio, vai. Eccomi qua. Ah, questo è il solito, vai, vai, benissimo. Solito, sì, però aspetta, Lucio, Lucio, fai una cosa, scusa, prima di sbroccare come al solito su Salvini, sicuramente, eccetera. Cerca di toglierti l'auricolare perché non ti sento. Un attimo. Amico mio, dai, su, la sbroccata. Un attimo qua, se ti deve partire la vena, fatela partire bene almeno, No, aspetta un attimo che faccio. Dai. Dai. Allora, sì, l'altra volta ti ho definito un bel caculo. No, beh, Lucio, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Richiamatemi questo. No, richiamatemi questo, richiamatemelo, dai. No. No, no, sì, sì, Lucio, non ti sento bene, che ti devo dire? Ettore, provincia di Gorizia, dai, Ettore. Oh, ciao, intanto. Ciao. Niente, guarda, io sono assunto alle cronache nazionali ieri, per colpa, anzi l'altro ieri, per colpa del giornale Piccolo. Del Piccolo di Trieste. Libero, del bravo, Libero Quotidiano. Sì, e che poi è successo? Spia, che anziché spiare nel buco, dal buco dell'atterratore dovrebbe spiare gli intralazzi che capitano in giro, ma se ne frega altamente. No, no, Dagospia fa anche quello, amico mio, dai, non cominciamo a dire stronzate, scrive qualsiasi cosa, dai. Beh, praticamente mi hanno accusato adesso, sì, adesso, sì, dopo circa 25 anni, anzi forse anche 30, di che ti hanno accusato? 49, di tirar fuori il mio vecchio, diciamo, film per passione, attività pornografica. No, beh, aspetta, scusa, cerchiamo di mettere le cose a posto. Facciamo il punto. Tu chi sei, scusa? Ti chiami Ettore? Io ti ho presentato Ettore. E allora io sono, appartengo a un partito, posso dire il partito? Sì, puoi dire quello che ti pare qua. Perfetto, il partito Forza Italia, che praticamente... Appartieni a Forza Italia, giusto? Perfetto, in che regione? Perfetto. A Trieste? Friuli, Venezia, Giulia. Che ruolo hai? Che ruolo Ma hai? Allora, guarda, io grazie a Edoardo Silio Serabini mi ha nominato... Ah, Edoardo Silio Serabini, grandissimo. Grandissimo. Ex marito, ex marito della signora Luna Berlusconi. Bravo, separando bravissimo. Dalla signora Luna Berlusconi, sì. Grande, e praticamente detto sono diventato componente... Bravo, del Dipartimento Cultura di Forza Italia, ripeto. Mi cioè, tu sei nel Dipartimento Cultura di Forza Italia. Perfetto. Dipartimento Cultura, va dai matti. Dipartimento Cultura, beh, oh, attenzione, cultura, non tutto insieme, non staccato, sia ben chiaro. Ah, cioè, non staccato in che senso? Cultura. Tutto staccato. Allora? Perché qualcuno potrebbe equivocare. E questo è un grande, Ettore. Dimmi, dimmi, Ettore. Praticamente il responsabile del direttore del giornale il Piccolo di Gorizia di Trieste, sì, praticamente. Sì. Non faccio nomi perché mi sto preparando praticamente. Beh, non faccio nomi, il direttore è il direttore. Cioè, vabbè, scusami, abbi pazienza. Il direttore non è difficile scoprire come si chiama, cioè, credo anche di saperlo. Io ho detto due, Gorizia e Trieste. Sta voi, ma puoi fare il nome lo stesso, ma non è, cioè, non è Sherlock Holmes qui. Vai, comunque no, vai, so, vai, Ettore. Ci mancherebbe. Allora, praticamente ha confezionato una intervista, sì, su un mio, diciamo, cosa che feci 30 anni fa. Cioè, scusa, aspetta un attimo, aspetta, fermi ancora. Allora, tu stai chiamando dicendo, mi hanno scritto degli articoli, hanno scritto degli articoli su di me in cui hanno tirato fuori il mio passato, ma adesso tu sei militante di Forza Italia, appartieni al Dipartimento Cultura, bravo, mano, bravo, e in più bravo. Che fai? Sei candidato a qualcosa? Vuoi fare no, qualcosa? Io non sono candidato a niente, ho solo fatto, diciamo, come candidato sindaco nel 2012 a Gorizia, a Cormon. Ma che hanno scritto? Che facevi da giovane? Praticamente le più grosse robe, hanno scritto tutto su di me, hanno offeso praticamente la mia famiglia sul giornale. Ma in che senso hanno offeso la tua famiglia? Scusami. Lasciamo perdere. Allora ti spiego, io ho un doppio cognome e un doppio nome. Un doppio cognome e un doppio nome? Praticamente alludendo come sul doppio cognome, Basilio, allora Ettore Guido Basilio Ribaudo. Ma è una cosa più semplice, no? Ettore Guido Basilio Ribaudo. È colpa mia, cioè anche questo, mica è colpa Ettore mia. Ettore Guido Basilio Ribaudo. Di ma anni, quanta gente siete? Di 49. Anni, di anni 49. Perfetto. Allora adesso, facendo Google qua, vado a vedere, praticamente tu giravi film porno, eri attore in film porno, no? No, io ho fatto solo una decina massimo, solo perché ma aspetta, sì o no? Non ho capito, sì, tu mi dici no, ma ne ho fatti qualcuno, una decina. Ti ho detto qualcuno, 10. Cioè, facevi l'attore nei film porno. Attore per hobby, in una decina. In una decina di film porno, beh, per hobby, qui siamo veramente al top. Abbiamo un appartenente ancora al Dipartimento Cultura di Forza Italia a livello nazionale. Beh, ma non mi stupisce, perché non c'è notizia. Che è stato un attore di film porno. Cioè, fosse uno dell'UDC, uno dice, sì, beh, sei strano. Forse era Cosimo Mele che sniffava cocaina con quelle due no, lame. No, vabbè, adesso questo... Non ci devi far querelare, amico mio, ti assumi la responsabilità di quello che dici, perché lui ha sempre detto che non aveva mai sniffato cocaina. Mai, mai. Mai, amico mio. Allora ritiro, perché questo... No, però adesso, a parte quello lì. Vabbè. Essendo lei scusi, un Ettore Guido di Basilio Italia. Ribaudo, esponente di Forza Italia con doppio nome e doppio cognome, era un attore porno. Era no, un attore porno. Perfetto. Continua. Era un attore porno. E adesso ti ha dato fastidio il fatto che abbiano ritirato fuori il fatto che tu facevi l'attore porno. Ti spiego perché l'hanno tirato fuori. Allora, perché questo qua non l'hanno tirato fuori eventualmente nel 2012 quando ma ero io candidato? Non lo so, Ettore, ma chi se ne frega? Cioè, non è che tu devi negare il tuo passato. Che hanno scritto di strano? Che hanno scritto di sbagliato? Hanno scritto completamente tutto di sbagliato. Cioè? Ti spiego. Primo, perché è arrivata la classica lettera anonima. Vabbè, ma è vero o no che tu facevi l'attore nei film porno? Beh, sono le foto, ci sono. No, le foto no, le foto che hanno messo non sono le mie. Tra parentesi, e questo è anche allora il grave questo problema. Ma scusa, ti voglio dire, hanno scritto queste cose qui perché ti vogliono colpire politicamente. Ma allora ti spiego, ti faccio solo una domanda. Dimmi, se Cantone, se Cantone, un assessore, e ho le prove perché gliel'ho rinfacciate, un assessore del comune di Cormons mi dice: guarda, nel 2012 lascia perdere tutto questo che stai facendo, le tue indagini, e io ti do un posto in giunta. Bene, no, io ho detto scusa, no. però adesso aspetta, le beghe locali non mi interessano. No, fammi terminare. Che cosa hanno scritto dopo di sbagliare? Dimmi allora. Nel 2015, quando Cantone, sul mio input, apre un fascicolo per corruzione contro il comune di Cormons e ne ha altre due a divenire, questo assessore mi manda un messaggio sul cellulare, perché un messaggio scritto. Gli faccio: ti ricordi la storia dell'assessorato che mi hai offerto? Non ha più scritto niente. Vabbè, questo però sono, ti ripeto, beghe locali che non ci interessano. Allora, la cosa più interessante è questa: tu hai un passato, hai un passato da pornostar. Questa è la realtà. No, non un passato. Ho fatto 10 video, sono di 10 giorni. Per cui passato fino a un certo punto. Ma con che casa di produzione? Ma la casa di produzione, la prima è stata la 100% e poi altre case di produzione. Amico mio, il mitico Magni. Bravo. Il mitico Magni, sei un attore. Che nominativo avevi? Qual è il tuo Il mio nome e cognome, se io ho messo sempre la mia stessa faccia quando faccio il Ettore perché... Basilio, Ettore, esatto. Basilio. Proprio perché non avevi un soprannome, Stecco Ducale. No, niente, guarda, ti spiego. Siccome io ho messo sempre le cose che faccio la mia faccia. Ma come mai facevi film porno? Come mai me l'ha proposto un amico e ho detto: siccome a quel tempo si è giovane e piace. Sei giovane, quanti anni fa? Ma avevo 19-20 anni. 20 anni, cioè 20 anni fa. No, 30 anni fa ormai si può dire. Cioè, però non è che anche io e Parenzo siamo stati giovani. Anche io e Parenzo siamo stati siamo giovani. Siamo giovani. Sì, siamo siete giovani, non siete. Però siamo stati anche noi trentenni. Io a 30 anni non è che mi veniva in mente faccio l'attore porno. No. Guarda, figuriamoci, che ne ho 49, non 30, ma anche a 20 non mi veniva in mente di fare l'attore porno, perché no, magari avrei fatto bene. Cioè, però non mi è venuto in mente, non lo so, perché invece a te è venuto in mente di fare l'attore perché porno. Perché sei borghese alla fine. Esatto, perché in realtà si è tutti bigotti, si va in chiesa, si fa. No, ma per carità, magari se l'avessi fatto avrei avuto anche un minimo di successo, non lo sì, so. Ho capito, no, non credo, questo non credo. Se l'avessi fatto, fermo lì, fermi lì che voglio tornare col mitico Ettore Guido Basilio Ribaudo. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte al giorno. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Levanna Marchi, superstar la settimana scorsa qui alla Zanzara, torniamo adesso col politico ex porno attore, però prima voglio farvi risentire lo sbrocco di Stefania Nobile. Stefania Nobile qui alla Zanzara sulle vittime delle loro truffe, eccetera, eccetera, eccetera. Sono dei furbi, come i coglioni, 100.000 lire sono visti risarcire dei patrimoni, come sono dei coglioni. Beh, perché per le conseguenze che hanno avuto, eccetera. Cioè, ma che conseguenze? Dai, Giuseppe, che dei malati, nessun malato chiama i maghi, erano tutti cornuti o cose, volevano sapere altre cose. Lascia stare. E 130 maghi, persone, 130 lì, persone truffate. I maghi sono tutti lì. Cos'è che ti sta sul cazzo? Che non hanno chiesto scusa, questo ti sta sul cazzo? Non lo chiederemo mai, scusa, sai perché? Beh. Ci sono persone che hanno fatto, ne hanno fatte di ogni e si lavano la coscienza con una parolina, scusa. È un po' come il marito che tradisce la donna, poi arriva a casa nel letto e dice ti amo, non serve a niente, sono parole. Parenzo, non sbrocchi di fronte alla Nobile, parti all'attacco, parti all'attacco. Guarda, per me la Nobile e la Marchi sono come avere due gatti randagi nelle mutande. Vabbè, cioè, mi provoca la stessa sensazione. Vecchia, ogni volta che le sento. Sì, ma ogni volta che le sento mi provoca nervoso e fastidio. Allora, addirittura Napoli Today, un quotidiano online, pubblica il mio racconto su quello che è successo a mia madre a Napoli. Qui non si può dire più niente, Parenzo, non si può dire più nulla. Cruciani di Vena. A mia madre hanno rubato 1000 euro a Napoli. Queste cose accadono solamente a Napoli. Poi molti mi hanno scritto dicendo: no, anche a me hanno bucato le ruote. Sì, ma lì c'è il genio dell'organizzazione. Cioè c'è il genio dell'organizzazione scientifica di queste cose, perché in quel casello dove hanno derubato mia madre, cioè in estate ci sono delle file per poi andare verso il porto, e dunque là si appostano tra casini vari per derubare i più sprovveduti, tra cui anche mia madre, poveraccia, una che ha 1000 euro in tasca, una che porta 1000 euro in contanti in tasca da Napoli, ma sei un pazzo scatenato. C'era già la legge di Renzi? Ma non lo so, ma probabilmente erano più di 1000 euro. No, era anni fa, non c'era. Ma probabilmente era anche più di 1000 euro, te lo dico. Sì, mi ricordo 1000 euro. Ma tanto non è mica reato. Cioè, non è un reato dirlo adesso. Se dico che c'erano 2500 euro, non è che è un reato. Doveva pagare l'affitto di una casa, non so che cosa, eccetera, in Sicilia. Ma perché devi coinvolgere la tua mamma? Si era portata migliaia di euro dietro. No, 1000 euro. 1000 euro dietro. Allora, che è successo? Che questi qua prima hanno bucato le ruote di una macchina di un amico, e chissà perché subito dopo la curva lì nell'autostrada c'era il coso, c'era il gommista, che poi uno dice: cazzo, il gommista, che fortuna, no amico, mi era tutto organizzato. Che uno dice: c'è subito il gommista, ah che figata, che culo, no. E intanto nel casino generale coi motorini passano, anche a piedi, non lo so, coi motorini passano, vedono quelli più sprovveduti, tic, e te fregano la borsa. Che geni, ragazzi, che geni. Allora, eravamo con Ettore Guido Basilio Ribaudo, dalla provincia di Gorizia. E adesso sono andato a ripescare l'articolo scritto sul Piccolo di Trieste, caro amico. Allora, dicono semplicemente che tu hai un passato da pornoattore, punto e basta. Leggilo bene. Adesso mi dedico alla politica, al sociale, vabbè, questo si dice sempre. Dice anche che tu sei stato alle suore a scuola, sei stato anche... ti sei laureato all'Università di Canterbury pure, no? Laureato in scienza politica a Canterbury. Occhio, dalle suore non glielo ha detto nessuno. Poi, continua ancora a dire... Ma l'hai fatta le scuole elementari alle suore o no? Sì. E beh, allora, scuola, hanno scritto la verità, cioè non è che hanno scritto una cazzata. E poi hai fatto all'Università a Canterbury, però per un certo periodo hai fatto il porno attore. Ma io dico una cosa, scusami se te lo chiedo, caro Ettore, che qualità hai come porno attore? Nessuna. Beh sì, qualcuna ce la deve avere. La resistenza, nessuna. La resistenza, la potenza. Sei certamente un bell'uomo anche adesso a 49 anni, vedo le foto, sei uno insomma, atletico e tutto quanto. Però che ne so, cioè, amico mio, quello è... Niente, nessuna. Cioè, il problema è che te spiego subito. Non ho mai rubato nessuno, ma sono trombato nei primi 10 giorni perché un film al giorno si facevano. Erano film altamente impegnati. Ma non è questo il discorso che viene fuori. E qual è il discorso? Il discorso è un altro. Perché tu intanto hai messo in moto, cioè gli accordi, cioè praticamente lui ha detto: guarda, se tu non mi dai l'intervista, io la faccio comunque. Vabbè, ma lascia perdere adesso questo. Però, queste sono affari vostri. Adesso. Macchina, tu dici che è macchina del fango questa? Probabilmente sì, perché te lo spiego ancora. No, però scusami, tu ti vuoi candidare adesso in qualche comune o no? Nelle prossime elezioni? Non aspetta a me candidarmi, non c'è nessuna elezione adesso. Io sto facendo, ti spiego, un percorso politico qui con un gruppo. Vabbè, di però scusami un attimo, la cosa più interessante adesso, scusami se te lo dico, con tutto il rispetto, sei molto simpatico. Non è il tuo percorso politico in quel del Friuli, per carità, è il fatto che tu sei adesso soprannominato il Rocco Siffredi dell'Isonzo, il Rocco Siffredi del Friuli. Ma infatti, gli ho detto questo, ascolta. Ma le misure sono uguali a quelle di Rocco o no? Se mi hanno soprannominato così, mica lo devo dire io, lo devono dire gli altri. Beh, dillo tu, cioè, hai fatto i film perché avevo delle misure notevoli, siamo sopra i 20 o no? Indubbiamente sì, abbastanza oltre. Sì. Il problema abbastanza è la terza, oltre è la che siamo gamba. Cioè, sopra, problema... 20, sopra i 25 pure, no? Esatto, quasi. Sopra i 25. Qui siamo alla propaganda. Non arrivo a quella misura lì. È l'ufficio perché poi non vado col metro, sai. 24 sarai. Ecco. 24, bene. Abbiamo accertato questa cosa qua. Parenza, era importante questa anche per capire uno perché fa. È fondamentale più che questo importante. Questo era importante perché facendo politica questa è una questione importante, non c'è dubbio. Ti è servito? Ti è servito in politica fare il pornoattore? No, non è servito affatto perché il problema è un altro. Perché qua, per esempio, in tutta la mia parte, per 8 anni sono fatti, scusa il termine, trombare da quelli di estrema sinistra. Vabbè. Almeno provino a farsi trombare in maniera corretta da uno di centrodestra che ha diciamo, esigenze normali, non dall'altra sponda. Cioè, in che senso? Scusa. Questo non ho capito. Non ho capito. Sono mica gay. Beh, non sei gay. Sicuramente dei gay, i gay non ti piacciono. No. Non ti piacciono, eh? No. Non ti piacciono. Infatti chi ha messo la voce è un gay. E questo è il problema. Nel senso, chi ha messo la voce? Come chi ha messo la voce a un gay? Chi è gay? Perché ho saputo chi ha messo la voce a un gay. Tanto è vero che sto preparando la querela per quella persona. Ma chi ha messo la voce su che? Su cose vere poi alla fine? No, sulle cose, allora, che siano vere possono anche essere tranquilli. E allora? D'accordo. Se sono vere... Il problema è che tu sai comunque che esiste una legge della che si chiama diritto all'oblio. Il diritto all'oblio amico mio, tu hai fatto l'attore porno, ti sei divertito per 10 giorni, hai girato 10 film. Dici il titolo di un film. Beh, non mi guarda, sono passati altri anni, non te lo so. Come non te lo ricordi? Cioè, ce l'hai impresso? No, veramente, ti giuro, non me lo ricordo. Allora, chi sarebbe il gay che ha messo in giro queste voci? Cioè, che non sono guarda, voci, non faccio nome perché mi è arrivato un messaggio privato con nome e cognome della persona che ha chiesto al lato di metterlo. Un gay ha ricordato il mio passato, questa è la storia. Un gay ha ricordato il mio passato. Forse sai perché? Perché non l'ho mai degnato di uno sguardo, probabilmente. Mamma a me mia. Mi pare una storia pazzesca. La politica locale. Infatti io lo chiamo sindrome da invidia penis, perché probabilmente ha visto i miei film e ha visto che il suo sfigurava e ha avuto l'invidia. Sempre la, la componente, sempre la commissione cultura di Forza Italia. Però. No. Questa è la commissione falegname che fa lui. No, però per dire, tu appartieni sempre alla commissione cultura nazionale di Forza Italia. Bisogna sempre fino a che non mi arriva la fiducia, sì. Sì, no, ma tanto perché vi ha dato per inquadrare Commissione Cultura Nazionale di Forza Italia. Sì, dici, sì. Anche perché, scusami, se hanno messo, scusa il termine, mignotte, puttane, difendono chi ubriaco va in consiglio comunale e viene preso dalla Digos, a me che dovrebbero farmi un monumento. Ma chi è che fa questo, scusa? Lasciamo perdere, nel 2011. Comunque, Ettore, io ti richiamerò domani, quasi, io credo che la tua storia va approfondita, e io ti richiamerò tutti i giorni. Sì, questo è importante. Sono qua disponibile, il mio cellulare ce l'hai, è pubblico, tra parentesi, pubblico. Dai, diamo anche il tuo cellulare, così magari scappa qualche parte in un film. Diamo guarda, il tuo cellulare. No, beh, film non mi interessa. Il mio cellulare è il seguente, 334 sì? 6274 sì? 558. Allora, anche che siamo perché in diretta, il mio numero ce l'ha anche Paolo Romani, con cui ieri ho parlato. Paolo Romani, sì. Esatto, per una proposta di legge che ho presentato alla Camera l'anno scorso, il 14 luglio. E c'è anche un video di questo. Su che cosa? Approfondire. Su che cosa, scusa? Sulla proposta di credito, sull'accesso al credito. Accesso al credito. Però se qualcuno anche, se sei sposato, fidanzato, che c'hai? Io ho una compagna che appena ha letto l'articolo sul il piccolo. T'ha lasciato. No, ecco, mi stanno chiamando, numero privato. È impazzita. E chiamano perché hanno il numero in diretta, scusami, amico mio. No, perché ho mandato la lettera la rettifica al libero di cancellare, perché lì il libero ha soltanto preso una piccola ma parte. Ma la tua fidanzata, che ha fatto la tua fidanzata? Niente, è contentissima come una Pasqua. Ma aveva, lo sapeva delle tue misure, no? Sì, sì, la prima cosa che mi è messo in chiaro. Mazza, Gioia, rispondi tu. Vai, dimmi. Chi è la tua fidanzata? Sapeva... No, è la gente che lo chiama. La prima cosa che hai messo... tu che mi stai chiamando, vergogna, fammi terminare almeno. La prima cosa che hai messo in chiaro? È la prima cosa che effettivamente ho fatto questo, perché massima trasparenza... Ma perché non lo sapeva? Non lo sapeva nemmeno? Sì, lo sapeva. No, quando ci siamo messi insieme, la prima cosa che ho voluto... Guarda, ho fatto il porno attore. Esatto, guarda che ho fatto questo. Prima cosa che beh, guarda, uno di questi giorni ti faccio rincontrare alla radio con il signor Alex Magni. Che è molto amico di Parenzo è diventato, ho saputo. No. Vanno il gatto e la volpe? Sì, ma è diventato la volpe amico di Parenzo, l'ho incontrato l'altro giorno a Roma. Ma quando mai? Ma sì, è venuto a girare quella cosa che hai fatto con tua moglie lì, no? Quella rassegna stampa che hai fatto con tua moglie. Come no? Ma ha detto signor Alex Magni! Signor Alex Magni è venuto! Ti assicuro, ti giuro che non è lui, non l'avrei chiamato lui, diciamo, per girare. Ma non mi hanno detto, signor Alex Magni, mi ha detto, sono andato a casa di Parenzo. Alex Magni è un cornuto, se l'ha detto. Che è andato a casa tua a girare la segna. Io non c'ero, cornuto millantatore, mi faccio dare il filmato. Vabbè, Ettore, non ci tradire. Ogni giorno qui alla Zanzara da domani, raccontiamo gli episodi, tutto quello che ti è successo. Francesco Fabiani è venuto. Ettore, dimmi. Da domani, ogni giorno, un episodio della tua vita. Va bene, mi raccomando. Ti ringrazio. Ciao, ma che ringrazio. Ciao. Radio 24 è diventata Radio Porno. Era una bella trasmissione. Lei l'ha rovinata. Ragazzi. ragazzi, io sono incazzato nero per un'altra vicenda qui, eh. Una storia incredibile questa qua, eh. Il giallo dell'Isonzo, il giallo del Friuli. Chi ha sputtanato l'ex attore porno? Sì, questa è drammatica. Chi ha sputtanato un gay? Una notizia incredibile. Ma tra l'altro, drammatica. La cosa incredibile è che il mitico Ettore Basilio fa parte del comitato nazionale di Forza Italia. Cioè, sì, beh, no, ma io della trovo... cultura, della no, no, cultura. Ma io questo invece lo trovo amico conforme. Amico mio, la cultura! Già il fatto che esista un comitato cultura nazionale di Forza Italia, divento pazzo io, divento matto. Invece, ma hai visto la notizia? L'avrei vista sicuro. Ma no, che notizia? Alle 9 del mattino stavo compulsando Twitter mentre ero lì da Omnibus. Ma che vai a fare Omnibus? A dormire? A proseguire il sonno. Io ogni volta che metto Omnibus dormo, non so perché. Dormo perché tutti parlano compassati, tutti parlano in maniera compassata, tranquilla, compassata. No, nessuna compassata. No, ma va bene, perché comunque ti volevo dire questo. Ero lì a un certo punto, vedo un tweet alle 9:01 di un parlamentare di Forza Italia che non ti sarà sfuggito di sicuro. Non lo so. Ah, sì, aspetta, no. Aspetta. C'ho una sorpresina per quella roba lì. Ma hai già capito? Oh, sì, come no. Hai già capito, ho capito tutto. Signora si chiama Laura. Lanciamo messaggi cifrati. Lanciamo messaggi alle 9:00. Adesso faccio un copia e incolla e glielo mando a Cruciani. Poi sicuramente lui ti guarda più compulsivamente. No, l'ho visto subito. Sì, ho immaginato. Ho in mente una cosa su quella roba lì. Fermo. Hai capito di cosa parlo? Sì, ma una cosa se fuori. Ma secondo te, ma Nilde Iotti? Vabbè, adesso non so la Iotti, la Livia Turco, ma anche la moglie di Almirante, la adorata nonnina. Vabbè, come sono, si passati chiama? Sono passati. Ma no, ma se avesse tempo, avuto dai. Twitter, la nonnina di Almirante, la moglie di Almirante, la moglie. Nonnina? È una nonnina oggi. La nonnina fascista. Non avrebbe detto di essere diventata single con ma un che tweet. Sei matto? Ma che roba è? Ma su Twitter? Ma soprattutto c'è un'altra risposta da dare a questa cosa, che dopo ti darò. Però la cosa che mi fa incazzare è un'altra. La cosa che mi fa incazzare è un'altra. Mamma. C'è stata questa storia drammatica dell'uccisione della madre di una ragazza e il padre in fin di vita. Fatto di cronaca drammatico. Con un ragazzo di 18 anni che ha sparato contro il fidanzato della figlia. Fidanzato della figlia di questi signori. Lui è in fin di vita e lei è morta. La madre. Allora, questo si è presentato con 86 proiettili. Una pistola con 86 proiettili. A un incontro con i genitori della fidanzata, la quale lo appoggia adesso, tra l'altro. Lo appoggia. La cosa che leggo incredibile oggi dei genitori di lui, cioè dei genitori del ragazzo. Sì, del padre. Dei genitori del ragazzo, sì. Sì, del genitore. Il padre è in fin di vita. Il padre di lui. Il padre di lui. Sì. Cioè dell'assassino, del 18enne assassino. Dice che è la ragazza che gli ha detto spara. Cioè lo vuole salvare. Uno si presenta con 86 che è stato plagiato dalla ragazza. Adesso io vorrei chiamare l'avvocato di questo signore, di questo ragazzo 18enne. Pronto? Avvocato Bartolini? Sì. Salve, buonasera, Cruciani, Radio 24, la disturbo? Salve, mica. Sì, due secondi. No, perché ho letto delle interviste del padre del ragazzo, di Antonio, no? Sì. In cui il filo conduttore è questo, cioè che sostanzialmente è stato plagiato dalla ragazzina e addirittura questa ragazzina gli avrebbe detto spara. Questo dice lui, sì. Ma lo dice anche il ragazzino? No, lui dice che sì, che gli ha detto di sparare, sì. Cioè che è stata la ragazza a dirgli di sparare. Si scaricano la responsabilità. Ecco, questo è un po' bizzarro, cioè io capisco la difesa, no? Sono entrati insieme nell'appartamento. Ha aperto la porta, lui non è entrato, ha chiesto di poter entrare, è stato autorizzato ad entrare, è entrato in casa. A quel punto c'è stato un diverbio, diciamo che il papà della ragazza è andato parecchio sui giri come già aveva fatto in passato e a un certo punto è diventato molto aggressivo e si è avvicinato verso il ragazzo. A quel punto lui dice, lei ha detto spara, e lui ha sparato. Cioè lei ha tirato fuori la pistola, ha sparato. Ma in che senso il padre è diventato aggressivo? Parliamo solamente di aggressioni verbali, non si è riuscito ad avvicinare. Il suo assistito è stato plagiato dalla ragazza oppure no? Qui non è questione di essere plagiati o meno, il padre del ragazzo è convinto di questo, sì. Però il fatto è che indubbiamente il rapporto era molto molto molto stretto, molto... Vabbè. Sì, diciamo un po' malato, ecco. Cioè tra i due il rapporto era malato, ma questo si capisce anche da altre cose. La parte forte chi era, lui o lei? Ma secondo me c'erano due fragilità messe insieme. Mm. Quella ragazza come veniva trattata in casa? Io non lo so che però lei si lamentava di questo. Ma veniva segregata? Sembrerebbe che negli ultimi tempi sì. Il problema è cercare di ricostruire... E quello da... per capire il perché che ci sia stato un omicidio mi sembra abbastanza evidente. Assolutamente. No? Sì. Quindi che Antonio abbia commesso un, vogliamo chiamarlo, un errore per dare un eufemismo, è pacifico. Sì, sì, ma questo non c'è dubbio. Ok, cioè. Quindi che lui debba rispondere, risponderà. Il problema è capire... Cioè, secondo lei è stato provocato, questa situazione è stata provocata, questa esasperazione è stata provocata. Potrebbe io, essere. Quello che so è così. Sì. Però anche qui, cioè, se uno si presenta con 86 proiettili, 86 sì. proiettili, eh beh. Sì. Io non credo che volesse... Dire questa cosa, ma questa non è ancora certa, ma insomma, sembrerebbe... Scusi, secondo lei, che è la cosa più plausibile, secondo me, uno non è andato lì per ammazzare? No. E no, non è andato lì per ammazzare. Con uno con la pistola, 86 proiettili, va lì così, per difendersi dai genitori della fidanzata. Lui dice che assolutamente non aveva intenzione di uccidere. Vabbè, certo, la ragazza dice che non c'era l'intenzione di uccidere. E se uno va con 86 proiettili, che vuole fare? Questo glielo domanderemo sicuramente quando verrà fuori questo elemento. Tuttavia, perché ancora non è emerso, sì, in certo. sessioni giornalistiche, avere 86 proiettili con una rivoltella automatica, una pistola automatica, semiautomatica, sì. è chiaro che è totalmente sproporzionato, no? Sì, questo è evidente. Sarà sproporzionato, ma certamente non vai lì per parlare. Non vai lì per parlare, cioè vai lì perché... Ma mi scusi, ma se io vado con una pistola con un caricatore pieno o vado con due o tre caricatori, cosa cambia alla fine? Beh, cambia, beh, ti senti insomma, più sicuro. L'intenzione cambia. Cioè, l'intenzione può cambiare. Credo. Comunque, vabbè, questi sono aspetti altri, sono altri aspetti, non c'è dubbio. Grazie, avvocato, grazie. Vabbè. Grazie, buona serata. Ah, ragazzi, ma uno che si presenta... A me queste cose fanno impazzire. Per carità, le battaglie giudiziarie, la difesa, quello che vuoi. Ma i genitori che cercano per forza di proteggere. Tu ti presenti con la pistola 86 proiettili e poi il padre dice alla ragazzina l'ho plagiato, gli ha detto spara. Ma anche se gli avesse detto spara, allora? Cioè, che vuol dire? Sei sempre tu che hai sparato? Sei sempre tu che hai portato la pistola? No. Dai. Allora, andiamo a Alessandro Torino, vai. Alessandro? Sì, pronto. Dimmi. Allora, io volevo fare un intervento sulla questione... Quale? Quella del veterinario. Sì, vai. Del veterinario cacciatore. Anche perché sono alcuni giorni che ormai sui giornali, qui a Torino, ma ovunque, si parla di questa vicenda. Allora, che è successo? Che c'è di nuovo? Ma di nuovo non c'è nulla. Di nuovo c'è che... Sì, alcuni suoi colleghi veterinari lo vogliono cacciare dalla professione, cioè lo vorrebbero disoccupato in mezzo a una strada senza poter fare il suo mestiere semplicemente perché è un cacciatore, una vergogna assoluta, sì. una vergogna totale, cioè allora, una vergogna totale. I veterinari che vogliono cacciare quest'uomo mi fanno schifo, mi fanno orrore, ma cosa cazzo vogliono? Uno non può essere libero di andare a cacciare legalmente, possedendo armi legali, anche i leoni, anche le zebre, anche gli elefanti? Poi ne risponde, se volete, per la propria coscienza, ammazzare un elefante, eccetera. Fermi tutti. Monellacci. La zanzara. Cari amici miei della zanzara, siamo al top, siamo veramente al top! Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao! Tra l'altro i 24 centimetri del tizio di prima è un po' 24 centimetri Radio 24, tra l'altro. Il mitico componente della Direzione Nazionale di Forza Italia, Dipartimento Cultura. 24 centimetri Radio 24, così. Allora, eravamo con Alessandro, Alessandro da Torino, 800 24 00 24. Alessandro parlava del veterinario di Torino. Vabbè, Alessandro, siamo d'accordo, per cui di che parliamo? Ma di che parliamo? Parliamo del fatto che è piuttosto assurdo. Ma tu che fai di mestiere? Non fai il veterinario, no? No, io lo faccio nella vita altro, ma sono cacciatore, sono dirigente venatorio, conosco anche il dottor Ponzetto, di cui sono amico e stimo, ecco, come se tutti. Alessandro, se sei amico di Ponzetto, puoi fare una cosa molto semplice: fagli una telefonata di venire alla zanzara, perché ecco. Perché è tre giorni che lo cerchiamo. Guarda, Cruciani, io personalmente lo appoggiamo a spada tratta, però vieni qui a raccontare quello che è successo. Non c'è niente di strano, uno deve affrontare questa cosa a viso aperto, a petto all'infuori, mica rintanandosi non è questo il problema. Io ho fatto un intervento sulla stampa di Torino venerdì, che è stato pubblicato come rappresentante di Associazione Venatoria. Sì. Il problema è che dopo la vicenda del dentista americano di quel leone, che ci sono minacce, ma uno le minacce le deve. Sì, ho capito, ci sono minacce da parte di pazzi scriteriati che dicono che ovviamente sei un assassino, eccetera, eccetera. Uno però deve difendere quello che ha fatto nella vita, no? Ma il dottor Ponzetto si sta difendendo. No, ma ho capito, ma si deve difendere non in tribunale, si deve difendere mediaticamente di fronte a questi attacchi vergognosi. Allora, siccome noi lo appoggiamo in tutto e per tutto, dopodiché uno può non condividere il fatto che va a caccia di leoni, ma chi se ne frega? Appunto. Digli, per favore. Una premessa, perché io seguo ogni tanto le vostre trasmissioni sulla caccia, da cacciatore ci tengo a precisarlo. Se c'è un'attività in Italia che è regolamentata in maniera severissima, ferrea, è proprio quella della caccia e della concessione del porto d'armi, perché se io mando a fanculo il mio vicino, mi viene tolto il porto d'armi e la licenza di caccia il giorno dopo. Io posso far politica, posso fare qualunque tipo di attività, ma non posso permettermi più di andare a caccia. No, ma guarda, Alessandro, ma su questo non c'è nessun dubbio. Io sono a favore della caccia, regolamentata ovviamente. Non l'ho mai praticata, ho una famiglia in parte di cacciatori, ma questo non conta, non me ne vergogno assolutamente. Ma ci mancherebbe non ho problemi, però chi fa questa attività chi l'ha fatta nel passato non se ne deve vergognare, non deve nasconderlo, e quando riceve attacchi gratuiti perso il lavoro, non l'ha perso ancora, per fortuna, cioè rischia, scusa, di perdere il lavoro. Una riflessione che sarebbe utile fare, ragazzi, ma perché un veterinario non può essere cacciatore? Questa è la follia. Perché il veterinario deve salvare le vite in generale, lo so, ci sono un sacco di veterinari cacciatori, ma non solo. Sapete quello sbaglio è strano, fumano oppure favoriscono l'interruzione delle gravidanze, cosa facciamo? Li buttiamo fuori dal no lato. Però non è sbagliato il paragone. I ginecologi che fanno gli aborti, che fanno? Fanno nascere le persone e poi fanno gli aborti. Allora dovrebbe essere la stessa cosa, no? No, il paragone la provocazione ci può stare, la riflessione ci può stare, però non è esattamente così. È la stessa cosa, identica. Cioè, no, Parenzo, il discorso. Io difendo la caccia, non ci sono mai andato, nulla. Ma noi però siamo. Il veterinario che teoricamente deve salvare la vita all'animale, perché non è che fa aborti il veterinario, no? Certo. Non è cura gli animali, i gattini, i cagnolini, i leoncini. Se il dottor Ponzetto avesse detto che quel giorno non era nello studio perché era andato a pescare delle trote e delle carpe, gli avrebbero rotto i coglioni. Allora, io rappresento un'associazione venatoria. Io sono impegnato nel mondo venatorio. Vi assicuro che stiamo vivendo una situazione di una deriva che non è ambientalista, siamo anche noi ambientalisti da quel punto di vista. No, ma ragazzi, uno che spara e fa caccia può essere ambientalista, amante degli animali, amante a favore del verde, anzi al contrario, è proprio così, perché solo se sei, come dire, animalista, anzi non solo animalista, anche ambientalista puoi essere cacciatore, altrimenti dove cacci? Sulla luna, sulle lande deserte, sul cemento, dove cacci? Ciao Alessandro, mi raccomando, fai questa telefonata. Io la faccio, vi ringrazio per l'ho fatto. Ciao. No, hai chiamato tu, mica ti abbiamo chiamato. Avete dato modo di esprimermi. Ciao, grazie. Ciao. Antonio, provincia di Chieti, vai. Pronto, buonasera. Dimmi. Anch'io mi sono attrezzato. Per fare che? Per difesa personale in casa. Sì. Con una forca a due corna. Un forcone a due corna di ferro, quello che si attizza per mettere a mangiare ai bovini. No, io non sono molto pratico di queste cose. Che cos'è questa cosa? Una forca a due corna? Cioè, solo due corna, già. Due corna, che vuol dire corna? Quello è il letame, che ha quattro corna. Sì. Ma dove abiti tu? Abiti in campagna, Antonio? Io abito in campagna. Sì, abiti in campagna. Hai paura dei ladri? Mi hanno fatto dei furti nella mia piccola azienda. E dunque adesso ti sei rotto i coglioni? Mi sono rotto i coglioni. Poi, siccome come nell'azienda l'ho beccato una volta, mentre io in azienda sono stato in casa, sono entrati. E dunque? Queste persone. Sì. E adesso su una forca a due corna a fianco al letto. Sei sicuro? Ma sei sicuro che può funzionare questa forca a due corna? Scusa, no, io non vorrei, non vorrei distoglierti, non vorrei un po' deluderti, ma secondo me questa forca a due corna un rapinatore se ne sbatte i coglioni, Antonio. No, allora c'è un asso di 2 metri. Ma come funziona tecnicamente? Cioè, si avvicina un ladro? È come una fiocina. E che succede? Boom, che fa con la come forca? nel 600, cioè. Se mentre dell'etame in gas mi entra, sì? Dell'etame, io lo butto fuori. Ma come fai con a buttarlo forca? Fuori, scusa? Non si capisce. Con la forca. Cioè, se un ladro entra dentro casa, che succede a quel punto? Che succede? Sì. A meno che loro non sono armati con pistole e fucili. Io c'ho una forca è 2 metri di lunghezza. E dunque? Io lo posso anche infilzare e buttarlo fuori. Ma infilzare dove? Dove infilzi? Come fai? Ma tu lo devi imbracciare tu sta forca? Certo. Ah no, pensavo fosse un meccanismo automatico. No. Vabbè, ti sei messo una forca che metti accanto al letto, un forcone. Quando mi entri dell'etame in casa lo butto fuori dalla finestra. Non butti fuori dalla finestra, va bene. Siamo contenti per te. Se ti senti più sicuro, va benissimo. Buon lavoro. Ma chi hai in casa? Moglie, figli, amanti? Chi c'hai in casa? No, c'è una moglie e 2 figli. Una moglie e 2 figli, che dicono loro? Siccome quando ho avuto una vista in casa, sono una bambina di 7 anni. E dunque? Dormiva, lei non se ne è accorta. E allora? E ora? Ho fatto la denuncia ai carabinieri, sono venuti. Sì. Ma noi non possiamo fare nulla. E dunque gli hai preso i forconi? Ho preso i forconi e ho portato in casa. Vabbè, certo. Antonio, tanti auguri, arrivederci, ciao. La Zanzara. Allora, 11 ore fa è cambiato il mondo. Una straordinaria e scioccante notizia arriva sui terminali, sui telefonini, sugli iPad, sui dispositivi Samsung multimediali e quanti altri, di tutti gli utenti italiani e non. La parlamentare italiana, anzi, diciamo come si presenta lei. La liberale vera, parlamentare Forza Italia, presidente del comitato bicamerale Schengen, una cosa incredibile. Credo nella distruzione dei soffitti di cristallo, così si definisce, member of the Italian Congress in inglese, l'onorevole Laura Ravetto, scrive. E tutto si bloccò. Da oggi sono single. Lo dico prima che qualcuno mi paparazzi con altri e dica che tradisco il mio fidanzato. Non ho più alcun fidanzato. Io la trovo strepitosa questa cosa qua. Il solo commento che mi è venuto da fare quando ho letto questa cosa è perché mi ero anche perso il filo dei fidanzati della signora Ravetto. Si riferiva sempre all'onorevole parlamentare Ginefra per caso? Si riferiva a quello o no? Beh, mi pare che poi sia stato un altro tweet di specifica dell'accaduto. No, non leggo io. Non ho visto qualcosa da qualche parte. Comunque, l'unico commento che mi è venuto da fare, adesso francamente non ho seguito i tweet della signora Ravetto, già non li seguo di mio, ma non è che mi viene da seguirli tutto il giorno. Non mi è venuto in mente, non credo che ci sia stato un altro tweet di risposta a qualcuno. Comunque, l'unica riflessione che mi è venuta da fare è questa. E chi se ne frega, non ce lo metti. Sì. Mi sembra molto chiaro, no? Sì, è la stessa cosa che ho pensato anch'io. Ma la seconda riflessione che ho fatto è: ma scusate, ma le donne della Prima Repubblica, le politiche, le donne della Prima Repubblica, no? Ministre. Rosy Bindi, ad esempio. Vediamo anche la seconda riflessione. Rosy Bindi farebbe mai un tweet simile? Ma no, chi se ne frega? Ma adesso perché fai questi paragoni? Ma no, ma... voglio dire, ma non me ne frega niente, dai, su. Mi torna anche la tosse. Ma anche me la guarita, adesso mi torna. Ma voglio dire, no, ma anche... le parlamentari di Forza Italia. Ma non mi interessa, cioè gli è venuto di fare questa cosa qui perché dice che la seguono per fargli le foto. La seguono, no, è giusto. Ancora una volta. E chi se ne frega, non ce lo metti. No, ma certo, giusto. Allora, chi di voi indovina il titolo del film da cui è tratta questa cosa, la sai, Parenzo? Forse è febbre da cavallo, no? No, lo vedi, stavolta sei più ignorante di me. No, certo. Adesso te lo faccio risentire. E chi se ne frega, non ce lo metti. Montesano, Stefano da Pescara. No, non è Montesano, Stefano da Pescara. No, no. Pronto? Vai. Vabbè. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Allora, io vi premetto che ho 25 anni e non mi sono mai interessato di politica più di tanto. Da un paio d'anni a questa parte ne sto seguendo, grazie a voi perché vi seguo tutte le sere. Allora io vi dico una cosa che adesso Parenzo sicuramente non piacerà, però la devo dire. Io il mio sogno di come dovrebbe essere il mondo è questo. Allora, io vorrei... Sì, vorrei un mondo senza nazioni, senza differenze tra Italia, Francia, Spagna, no, sì, certo, America e Russia. Un solo governo mondiale, unico, governato da un G6. Che vuol dire questi G6? Questi sei dovrebbero essere questi che adesso ti vado a elencare. Dimmi. Il primo in assoluto deve essere Salvini, in cima alla piramide. Poi ci deve essere, subito giù, Berlusconi e Putin. Sì. E gli altri tre devono essere in assoluto De Luca, Veschini e Sicignano. Cioè, allora tu la grande cupola del mondo la organizzeresti così: sì. Salvini. In cima alla piramide, Salvini. Vabbè, al secondo la piano, galleria degli orrori. La galleria degli orrori. E poi al secondo, secondo piano ci devono stare Berlusconi e Putin. Sì. Al terzo livello ci stanno Veschini, Sicignano e De Luca. Per chi non lo sapesse, perché non lo mette anche al Baghdadi? Signor Veschini è il super fascista di Perugia, venditore di cimeli fascisti, amico mio, tra l'altro, signor Veschini, che mi ha regalato, ripeto ancora una volta, dell'ottimo vino, due bottiglie di vino, uno con l'etichetta con Hitler sopra, l'altro l'etichetta con Mussolini sopra. Ci sarà olio di ricino. Ha fatto del vino del Sangiovese, adesso non mi ricordo cosa, e ci ha messo sopra delle etichette col signor Hitler. O col signor. Io ce l'ho a casa. Stupendo. Non potrebbe neanche venderle una ma con che Hitler sta, sopra. Non dire cazzate, dai, su. Con Hitler. Ma chi se ne frega, dai. Ma come chi su. Se ne frega? Io non ho capito adesso, scusa, signor Veschini, cioè, l'hai messo però in basso nella tua graduatoria dai governanti del mondo. Mi dispiace perché questo. Veschini, De Luca e Sicignano sono quelli un po' più folcloristici, capito? Ah, un po' più folcloristici, dunque li mettiamo così a governare, però non troppo. Sì, diciamo. Sì, sì, però devono avere però una parola mettere, un po'. Non puoi mettere il signor De Luca alla stessa altezza di Veschini. Io De Luca lo metterei in alto al posto di Salvini, governatore del mondo. Cioè, farei De Luca primo ministro del mondo e Salvini ministro degli interni. Non è male, eh? Non è male. Veschini, mazziere, cioè poliziotto. E un'altra cosa importantissima è che la prima cosa che bisogna fare è una pulizia mondiale. Una pulizia? Pulizia, non polizia. Pulizia. No, ho capito, pulizia si pulire il mondo globalmente. Lo diceva anche un altro signore con i baffetti e un imbianchino tanti anni fa, negli anni 30. Diceva che voleva fare una proprio non una pulizia, una polizia, ma una pulizia. Sì, lo diceva anche quel signore con quel baffetto sceno, orrendo che aveva lì sotto. Tu hai visto che c'è tutta la discussione perché il Mein Kampf sulla pubblicazione del Mein Kampf in Francia. Sì, sì. Perché sono alcuni dicono di sì. Sei d'accordo o no? Certo che è giusto pubblicarlo con un commento, ma ci manca. Ma però non scambiatevi per un idiota, perché voglio dire, c'è una differenza tra pubblicare. È un libro di una noia mortale, ma no, un testo io l'ho anche letto perché in Italia l'ha pubblicato le edizioni Caos, quindi figurati, ce l'ho anche a casa. Che ma fatto, voglio dire, che stai facendo? Stai bevendo in diretta? Bevendo un goccio d'acqua. Ma perché non ti fai anche una sega? Allora, non so. Tossire non si può tossire. Ma fatti anche una sega, non so, a questo punto. Bere. Cioè, ma fatti anche una sega. Cioè, non lo so. Scusami. Ma non lo so, fai qualsiasi. Allora, tossire non si può tossire, non è che la gente in questa settimana mi ha detto. Ma no, ma mentre parli, almeno falli in una pausa, mentre parli. Traffico, dai. Ah, potremmo andare a quel paese, Parenzo. La Zanzara. Parenzo, allora se incontro Parenzo lo frusto con l'ortica a culo nudo. Ragazzi, ancora io non ci posso credere che abbiamo pagato 107 milioni di debiti della vecchia gestione dell'unità, soldi nostri con una leggina del 98 voluta da Prodi. Che c'è, Prodi? Che c'è? Che confusione che fa sempre. Fa confusione, con calma, in silenzio. Perché fare? Ma non è che in silenzio, ce l'avete messo in quel posto. Su tutto questo polverone. Ma non è un polverone, c'è cioè una legge che ci ha fregato 107 milioni di debiti. Aggressività, è una leggina, non è una legge. Ma una no, leggina. Ma è una leggina col cazzo, scusa. Fattene mille Romagna, una leggina, piccolina, tranquilla. Ma non è in Emilia Romagna, al Parlamento Nazionale no, l'avete fatta. No, perché sono di Reggio nell'Emilia. Me l'ha fatta piano piano. Ragazzi. Shhh. senza i le debiti urla. Dell'unità pagati con i soldi pubblici. Sì, lo so brutta che avete... parola, ma no, ma l'avete fatta voi sta legge, fatta a debito la legge, ma brutta parola da dire, sempre aggressivo le parolacce. No, calma, tranquillità, serenità, leggina, calma, tranquillità, serenità. Ragazzi, altro che serenità, abbiamo con noi, beh, la settimana scorsa l'abbiamo... Aspetta. Ah, Angelo Panebianco, no, giusto, no, la settimana scorsa la l'abbiamo celebrato perché ha fatto una cosa pazzesca nell'ultima puntata dei Sorci Verdi, dal programma con J-Ax, si è messo a fare il rap. Occio, dentro il club come sboccio, mi vedo solo dentro a piedi a terra, tutti facevi seghe, io la denier. Sbocciavo con Eva e con Alba, tu fai la vita loca, io la vita smeralda. Jerry, eccoci qui! Ciao! Come stai, amico mio? Ecco. Come stai? Ecco, sto parlando con te, Jerry Kalashnikov. Dio, ciao Dio! Ma come Jerry Kalashnikov? Perché nel video, nella canzone, dico pure sono tornato in città, Jerry Calamità. Rima rafica, Jerry Kalashnikov. Mamma mia, ma come, chi è che l'ha scritta libidine, questa canzone? Doppia, allora, libidine. Quel geniaccio di J-Ax, sì, ha avuto questa pazza idea che devo dire che sta funzionando. Cazzo, molto. Praticamente non so quante visualizzazioni la settimana scorsa. Siamo sui 2 milioni adesso. Mamma 2 mia, milioni ragazzi. Di visualizzazioni 2 per Ocho. 2 milioni di visualizzazioni per Ocho. Però Jerry, scusa, questa qua è praticamente una presa per il culo del rap, diciamo la verità. Una presa per il culo, sì, è su un pezzo di Otis Jensen, così, sai, è una presa per il culo di quei rapperoni americani, quelli con le collanone, anche quelli italiani, però dico, insomma, mettici dentro un po' tutto e poi anche un'autoironia, perché il testo l'hanno fatto con tutti i miei tormentoni, perché ho scoperto che sia J-Ax che sia questi suoi collaboratori bravissimi che sono i Two Fingers, sì, un altro gruppo di rapper, sono tuoi ammiratori, sono miei ammiratori, quindi ma ci hai messo pure cose, adesso non mi ricordo bene le parole, perché mi ricordo soprattutto quella cosa, tu ti facevi le seghe, io Mara Venier, beh, vabbè, tu ti facevi seghe, io la Venier, beh, com'è che fa, tu ti facevi seghe, io la Venier, sarà stata contenta la signora Venier di questa citazione? Sì, ma io avevo credo. Paura, dico, adesso Mara si incazza e invece no, un tributo alla sua femminilità. Tributo, no? Certo, sì. Ma per Parenzo, capisce, è tutto volgare. Invece questa roba, no, qui non è volgare nei confronti della Venier. No, era divertente. Certo, tu ti facevi seghe, io la Venier, uno no, può... Ecco, io fossi in Mara, magari avrei detto, beh, magari caro amico Jerry, sai... Mafio, ma Mara è una persona di spirito. Però benissimo. Ma scusa, ma la conoscete Mara? Come no? Certo. Allora... Anche il marito conosciamo. Ma che gli frega, Mara? Ma loro sono contentissimi e sono stati i primi a telefonarmi per complimentarsi di questa cosa del successo, allora, incredibile. Le strofe significative sono queste: io mi facevo Mara, no. Non mi facevi seghe, io la Venier, bocciavo con Eva e con Alba, tu fai la vita loca, io la vita speralta. Cioè, la realtà è che il riferimento è al fatto che una volta ci si divertiva di più, cioè perché... Esatto, il riferimento è un ipotetico sbarbato di oggi a cui gli dico, stai calmo, tu cosa fai, zio? Che qua lo zio invece... Cioè, lo zio è stato con la Venier, ha fatto la vita vera, tu invece non fai una... Hai capito? Tu che fai? Tu stai in coda, babbo, fai la coda. Qual è l'altro? Con Jerry non fotti, la tua tipa sì, libidine coi fiocchi... Bah, ragazzi, ma veramente stupendo. Un capolavoro assoluto, è stupendo, ma... Io voglio capire di chi sono le parole, è un misto pure. Allora, le parole sono di J-Ax e i Two Fingers, che sono due ragazzi, l'hanno scritta loro e dopo io ci ho messo, e poi Calogero ci ha messo la cosa, Calogero ci ha messo la sua grande interpretazione. Calogero Mannino è lui, si chiama Calogero. Calogero Mannino. Calogero si chiama. Allora, pensavo Calogero Mannino, scusa. Mannino, ma che c'entra? Dai, Mannino. Sono Calogero Calà, nato a Catania il 28/6/051. Ma scusa, ma tu nella vita, dopo questa roba qui, che vuoi fare ancora? Perché sei giovane, che vuoi fare, Jerry? Io voglio fare tutto, perché io, insomma, fortunatamente sono di una generazione che gli attori hanno studiato per diventare. Ma qua di film. Ma fai ancora le cose in Costa Smeralda, il tuo locale? Io sono venuto una volta, due stati allora, fa. Allora io vi dico una cosa, perché voi state nei vostri attici romani. Ma quale romani? Io sto a Milano. Quello... No, dicevo a Parenzo. Parenzo. Però io sono venuto Parenzo sta nei volta. Suoi. Parenzo sta nei suoi appartamenti. No, allora, quelli, i dirigenti Rai, quelli produttori, stanno nei loro attici romani e fanno sempre. Continuano a chiamare sempre la stessa gente, gli stessi film. Io faccio più serate dei cantanti, delle rockstar. Io faccio 120-130 serate all'anno. Tutto esaurito? Tutto esaurito, Teatro Nuovo di Milano, piazze d'estate, Capannina. E adesso farò l'ultimo dell'anno a Cortina, al Palaghiaccio. Ma magari uno dice, può fare quello, la televisione è un po' più complicato. Oppure ti sentiresti in grado di fare uno show in televisione? Ma secondo te se lo faccio in teatro non posso farlo in televisione? No, ma figurati. Ma perché in televisione ormai lavorano solo quelli che sono con i grandi impresari. Io cioè con i grandi agenti, dici tu, i grandi agenti, i grandi che tu li chiami impresari. Esatto. Scusa, io sono stato, tu che sei a Milano, io sono stato consacrato 20 giorni fa all'Alcatraz, ho fatto il come no? All'Alcatraz con 3.000 ragazzi di 20-25 anni, cioè, quindi vuol dire che insomma questo genere. Ma cosa dicono? Se dico, ti incrocia e dici libidine, cosa dicono? Esatto, ancora dicono libidine, sembra incredibile, però insomma, funziona ancora. Poi faccio un bello show dove insomma ho un repertorio di canzoni eterne che io sapientemente mi. Ma tu l'hai letta la biografia di Mara? L'hai letta? La biografia di Mara Venier? Sì, ho letto un po', ho letto soprattutto il mio capitolo. Allora, ma è vero che la tradivi come un pazzo? Ma non è vero. Ma non lei è dice vero questo, che la tradivi continuamente? Ma no, che la tradivo, facevo il birichino, avevo voglia di divertirmi. E che vuol dire? La tradivi. La tradivi. Avevo voglia di divertirmi, allora andavo in giro. Lei voleva andare a letto presto, invece io come si addormentava andavo nelle discoteche. Vabbè, succedeva quello che succedeva. Dice che ti ha dato un sacco di botte per come ti sei comportato. Sì, poi lei veniva con la scopa a darmi le botte in mezzo alla pista della discoteca. Ma no, a parte questo, ma veramente ti picchiava a casa il periodo breve che siete stati insieme, la signora Venier? Beh, mica tanto breve, siamo stati insieme 4-5 anni. In tutto 4-5 anni? Sì. E di matrimonio? No, matrimonio no, c'è stato un matrimonio annullato. A Las Vegas, avete fatto la cosa del matrimonio a Las Vegas. Sì. Ma no, ma lei mi menava perché pensa che un giorno è arrivata anche, che lo racconta anche nel libro, è arrivata anche siccome c'era una mia foto sul giornale, è arrivata a picchiarmi col giornale arrotolato mentre stavo girando una scena di un film, ma non ha aspettato il ciak, è proprio entrata in nella scena. Nella scena, ma scusa, che avevi fatto? Te eri fatto una, che avevi fatto? Ma no, era uscita una foto, ma insomma, lei era molto gelosa. Vabbè, ma comunque, con quante donne sei stato in vita tua? Ma questa qui è una domanda che da te non mi aspettavo, Parenzo. Ogni tanto si crucianizza. Anch'io non sempre. Che ne so, sei stato 200, 300, ma non lo so, adesso quando ero giovane ho fatto i miei danni, però adesso dai, dire un numero mi sembra poco. No, ma presso a poco. Adesso andiamo di Viagra invece, No, ancora no. Ancora quello né Cialis, vedi? No, ma poi mi fa paura il Viagra. A me pure. Mi fa paura che mi pia un coccolone. Ma pure a me, guarda, ho paura di che mi prendi un coccolone. Ogni tanto avrei bisogno di una mezza pasticchetta. Cioè, penso di avere bisogno. Poi quando sono lì dico, no, ragazzi, se poi ce ne sto secco, ma che me frega? Cioè, ma anche se una sera sono meno attivo. Meglio fa brutta figura, no? Bravo. Fermi tutti, pubblicità, poi torniamo con Jerry Calà e Ocho. La Zanzara. Ocho. Dentro il club come sboccio, li vedo solo dentro al piede a terra, tutti facce di seghe, io la venier. Sbocciavo con Eva e con Alba, tu fai la vita loca, io la vita smeralda. Beh, continua tu Jerry, vai. Ho rossa l'iride, mi sale il crimine, la tua tipa che mi guarda, libidine. Ragazzi, è stupendo, è stupendo, è stupendo. Allora, Jerry Calà è con noi a presentare Ocho, questa cosa che per me è diventata una droga. Ho passato tutto il weekend a fare Ocho, Ocho, Ocho. Tu ti facevi le seghe, io maraveniere. Sì, io sono pure... negato, Cruciani. No, no, guarda che non sono affatto negato, invece. Non sono affatto negato, adesso perché non so bene la strofa, però non sono affatto negato. Allora, però io voglio capire una cosa. La libidine di oggi per te che cos'è, Jerry? Cioè, che cos'è che ti fa provare ancora libidine? Libidine fortissima, doppia libidine, tripla libidine. Beh, beh, le libidini oggi sono molto diverse. Per esempio, la mia libidine oggi è mio figlio, cioè, che poi è lui che mi, voglio dire, che mi spinge, che mi dà la carica per fare anche queste cose un po' diverse che magari la gente non si aspetta da uno della mia età. Vabbè, ma tu come ti sei sentito vestito in quel modo lì? Stupendo. Ah, mi sono divertito come un pazzo, perché insomma io prima di essere uno che canta sono un attore, quindi mi sono guardato bene un po' di video, poi mi sono vestito, mi sono truccato, occhialoni con la nonna e niente, sono entrato nella parte. Eh sì, ma si vede la grande. Senti, ma tu e poi devo dire che avevo un gruppo di Jack, sono dei ragazzi veramente molto spiritosi, molto professionali allo stesso tempo. Sono molto, molto anti-salviniani, J-Ax. Ma un po' anti-salviniani. Tu che ne pensi di Salvini invece? Avete discusso? No, no, io non parlo di politica. Perché non parli di politica? Perché guardano tutti i suoi film, anche i leghisti. Non ho idee chiare. Qualcuno ti piacerà, che ne so, quell'altro lo consideri un imbecille, quell'altro lo consideri un cretino, quell'altro lo consideri intelligente, quell'altro lo consideri... No, lui è come, sai come chi mi ricorda? Siccome anche lui alla fine ha vissuto a Verona a lungo, Calà. È come l'imprenditore Giovanni Rana, che una volta mi disse: guarda, io non parlo di politica perché i tortellini li mangiano sia quelli di destra sia quelli di sinistra. Vabbè, ma non è brava, e Jerry Calà uguale, capito? Cioè, giustamente dice: vabbè, perché io devo inimicarmi qualcuno che magari qualche ideologizzato comunista o leghi, e certo, ma io lo capisco, ha ragione. Un po' come me. Uguale proprio. Un po' come me. Cioè, infatti ti ammiro molto. Ti ascolto molto. Ma tu sei la mia compagnia dei miei viaggi quando vado a fare le serate. Meno male. Va bene, Jerry, ciao, a presto. Ciao. Ah, così mi molli così. E come ti devo mollare? Non vuoi parlare di politica? Che te devo fare? Cioè, così due minuti. La legittima difesa. Hai una pistola almeno? Hai una pistola in casa? No. E contro i ladri che cosa usi? L'allarme. Ci fa l'allarme, è uno di quelli che dice più allarmi per tutti, più allarmi per tutti. Meno pistole. Ti piace Berlusconi? L'hai ma non visto? Vuole parlare di politica, ha detto. Ma no, a Berlusconi gli piace, però, che non è politica, Berlusconi è Berlusconi. Ma Berlusconi per me io non lo vedo come politico. Io Berlusconi lo vedo come l'uomo della televisione, quello che tanti anni fa quando eravamo coi gatti ci scritturò e ci portò a Tele Milano. Ha ancora un futuro politico per te o no? No. Ma io penso che, visto quello che c'è intorno, credo che ce l'abbia. Ma non che ce l'ha, glielo lasciano, perché stanno facendo, insomma, non credo che stanno facendo proprio bene, perché... Chi? Così. Renzi? Renzi non sta facendo benissimo, dici, no? No, mi sembra che non stia facendo... Per te sta facendo benissimo. No, alcune cose sì, altre no, ma sì, in generale molte promesse o cose, insomma, mi aspettavo molto di più, questa è la verità. Promises. Ma tu sei stato amico di Grillo, l'hai conosciuto? Sì, naturalmente. Ma sì, ne avevamo già parlato. Ma che ne so, ma anni fa sei venuto qua, non mi ricordo più niente. Io. Sì, con Grillo abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, perché eravamo sotto gli stessi impresari, Gentile Marangoni, quindi facevamo gli stessi locali, e poi avevamo un amico in comune che aveva un locale a Castiglioncello. E lo voteresti? Insomma, lo voteresti? Eh? L'hai già votato Grillo, lo voteresti? No, io non voto. Non voto tantissimo. Perché non voti tantissimo. Sono un uomo indeciso politicamente, perché non addirittura non andare molto a votare, capisco non esprimersi, ma non andare a votare, dai. Ogni tanto ho paura che qualcuno lo veda, magari dentro il seggio. Che mi veda, che no, perché le telecamere le mettono dappertutto. Va bene, Jerry, ti abbraccio, a presto. Ciao caro. Ciao. Allora, io non so se sia vero, ma l'eredità di Mattielli che va allo Stato e dunque potrebbe la casa, perché i suoi non parenti, i parenti di Hermes Mattielli, sì, ce li ha, ma pare che abbiano rifiutato l'eredità per via dei debiti, per certo, via dei debiti, dunque certo, va allo Stato questa casupola. Giusto. E potrebbe andare, anzi andrà quasi certamente ai Rom che lo hanno rapinato. Non so che cifra andrà alla fine. È conseguenziale alla sentenza. Sì, d'accordo, è cioè tutta la legge, per carità. Di... Io, si può considerare scandaloso questa cosa una vergogna oppure no? Cioè, che la cosa? Si può considerare una cosa vergognosa il fatto che... Che una persona che è stata condannata... Che l'eredità che ha dei di Mattielli... Debiti, che ha dei debiti e che non ha pagato sino ad oggi, poverino, pace l'anima sua, i debiti che aveva visto quello che ha compiuto secondo la magistratura, vanno lì. Ho capito. Ho capito, va... dov'è la vergogna? O la vergogna è a prescindere nella sentenza? Secondo me sì, ma è addirittura la conseguenza di tutto questo, ma non è l'eguleio, è quello che... Cioè, cosa, come si fa a cambiare sta roba? Ma si può dire che è una vergogna questa roba qua o no? Che la casa di Mattielli vada ai Rom che lo hanno, che la volevano rapinare. Si può dire che mi fa schifo questa roba o no? Almeno questo, si può dire che fa schifo? Oltre ma messa così, no, però ecco, è sbagliato perché messa così sembra appunto fa schifo questa roba, fa schifo. Comunque la metti, fa schifo. Come ma fa schifo tutto, fa schifo tutto. No, cioè, però, ma anche la sentenza, perché so che questa è una conseguenza della sentenza. Cioè, c'è delle regole, appunto. Quindi non è ho dire... capito, ma mi fa schifo questa roba qua. Che quelli cioè, che hanno... va lì anche perché i come si chiamano? I parenti meno stretti hanno rifiutato l'eredità con debito. E quindi che devi fare? Vanno ai Rom. Poi cos'è che va? La casupola di che cosa? Che cos'è che va? La casupola dove è stato alla fine. Allora, Alfredo Milano, vai Alfredo. Sì, ciao. Dimmi Alfredo, dimmi. Ciao carissimo Giuseppe, io ti volevo parlare, commentare l'intervento di Salvini precedentemente. Non ho capito, scusa. Io volevo commentare un passo dell'intervento di Salvini. Vai, dimmi. L'ho ascoltato. Allora lui sostanzialmente cosa ha detto? Che lui ha scoperto che anche un solo voto in più lo può fare vincere, no? Sì. E quindi dice, io ho il dovere di cercarlo questo voto. Come? Alleandomi. Quindi sostanzialmente lui cosa dice, il Salvini? Che ha capito che da solo non ce la farà mai. Quindi non sarà più né duro né puro, che tra l'altro è quella cosa che lo ha aiutato ad uscire dall'angolo, no? Dall'angolo in cui lui era. E quindi adesso cosa fa? Imbarca tutti. Ma non è quindi che imbarca tutti, ha capito che senza alleanze non va da nessuna parte e dunque tutti si allea con Berlusconi. No, lui non si allea con Berlusconi, lui ha una compagine che parte da Forza Nuova. Vabbè, ma quello Forza Nuova non ha mai fatto alleanze con Forza Nuova, con Casa Pound, che però non sono andati a Bologna. A Roma con Forza Nuova, caro mio. Guarda, abbiamo fatto presente a Salvini una cosa molto semplice, che nel 2012, nel 2013, è vero, quando Berlusconi era alleato di Renzi ed era nel governo Letta, però insomma anche dopo in realtà lui diceva delle cose di Berlusconi. Diceva che Berlusconi era finito, che era morto, eccetera, eccetera. Dopo, evidentemente, Berlusconi ha lasciato Renzi, eccetera, e i rapporti sono ritornati quelli che erano prima. Vabbè, Alfredo, ciao. Riccardo, provincia di Chieti, dai. Buonasera. Dimmi. Volevo rispondere, veramente ho telefonato per rispondere a quello che mi è sembrato un quiz. Ma no, un piccolo quiz sulla notizia della Ravetto, sti cazzi là. E chi se ne frega? Qual è? E chi se ne frega, non ce lo metti. E il film viene dal film I soliti ignoti. Bravo Riccardo, I soliti ignoti. La scena la sappiamo qual è, quella del carcere. E che premio c'è? Nessun premio, che premio ci deve essere? Cioè, che vuoi? Posso proporti un premio? Che premio? Dimmi. Una serata a Zanzara senza Parenzo. Ma no, ma una serata a Zanzara senza Parenzo è come andare in un bordello e poi non trombare. Questa, cioè, è una gentilezza che hai detto. Una volta sono andato. Mi piace la tua metafora. No, sono andato in Svizzera recentemente, come sai, in un bordello con un signore che poi a un certo punto quella sera non ha fatto nulla, cioè ha pagato l'ingresso e tutto. C'è un guardone, ha guardato. No, non ha fatto niente. E tu cosa hai combinato invece? Ma io ho fatto così, normale. Hai operato, come dice. Ho provato. Ma cosa hai provato? Ho provato varie cose. Ho scelto a un certo punto. Ma in quanti eravate? Il rassemblement? No, due, one to one. Ah, uno a uno. E quindi, ma maschio o femmina era lei? No, femmina. Una donna. Ho capito. E quindi Romena. Quanto è durata l'operazione ruspa con la romena? Mezz'ora. Mezz'oretta. Mezz'oretta, 120. 120 euro. 120 franchi svizzeri. Porca miseria. Ma ti danno anche un aperitivino, un drinkino? Sì, cioè, c'è tutto quello che vuoi. È tutto pulito, le lenzuola, le cose. Pulitissimo, pulitissimo. E poi di cosa avete chiacchierato? Della politica rumena, del premier rumeno? No, voleva anche chiacchierare, immagino. Alla fine, voleva anche chiacchierare. Cosa ha chiesto? Cosa ha chiesto che fai, che non fai, eccetera. Ma che fai? E tu cosa hai detto? No, ma in inglese era, non parlava italiano, in inglese. E tu cosa hai detto? Che vuoi avere? Le solite invita cose. La radio a questo punto. Ah, Italian Journalist. Invita alla radio. Ma magari. Ma ti ha detto che vanno anche dei politici ogni tanto? Che politici? Svizzera, dai. Ce l'hai intervistata? Ah, no. E cosa gli hai detto? Avanti, avanti. Mentre lei faceva traffico. Dice, ma no, one moment. Altre cose, non ti preoccupare. Cosa gli hai, che zozzerie le hai detto? Sentiamo. E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Grandi discussioni sui campi rom a quinta colonna. Sentiamo il tuo amico Marcato Padovano della Lega Nord che dice: beh, sì, se protestano per i topi, chiamassero. Quando io vedo questi qua si lamentano per i topi e aspettano che arrivi il vigile o il sindaco a togliere i topi, ma comprati un gatto e manda il gatto nel tuo campo rom. Perché devo venire io a toglierti i topi? Ma dove sta scritto che devo spendere soldi per toglierti i topi? La soluzione è il gatto. Comprati un gatto per i topi. Deve arrivare il vigile a portarti via il topo, perché non sei in grado di portarti via il topo. Allora, amici rom che siete all'ascolto, il suggerimento di Marcato, esponente della Lega Nord, Marcato, è questo: non rompete i coglioni con i vigili, ma questa ha ragione, per i topi che ci sono nei campi rom, piatevi i gatti così i topi spariscono. Allora, Gianluca da Padova, vai Gianluca. Ciao a tutti, buona bella trasmissione, mi è sempre piaciuto tutto quanto, però sì, continuate. No, Gianluca, dai, forza però, parla. Il gossip va tutto bene, ma quando iniziate a parlare di animali... No, ma stai parlando col viva voce, dai, su, Gianluca, dai, forza. È proprio una cosa bruttissima quella che fate. In che senso? Perché scusa, proprio non avete un minimo di sensibilità per quelle povere creature che ne hanno sempre bisogno tutti i giorni. Io mi opero da 20 anni in mezzo alla strada e quant'altro per aiutare questi animali e voi dite che un cacciatore è sensibile e amante della natura. Assolutamente natura sì. Morta. No, ma che natura morta? Natura morta, amante della natura morta, perché gli animali sono meravigliosi. E allora? I bambini. E allora anche chi ama gli animali, questa è una stronzata pazzesca. Chi ama gli animali? Ma no, tu stai dicendo una la maggior cagata, parte dei cacciatori che conosco, compreso mio zio che non va più a cacciare, ma andava a cacciare fino a poco tempo fa in Serbia. Stai zitto un attimo, devo raccontare una cosa fondamentale. Andava a cacciare in Serbia, mio zio andava a cacciare in Serbia tranquillamente senza problemi, dopo aver cacciato in tutta Europa. È un grande amante degli animali, adora gli animali, capito? Adora gli animali. Hai un figlio, hai famiglia? La ami la tua famiglia? Non la vorresti morta? Una cazzata, allora, stai dicendo una boiata inaudita. No, tu stai dicendo una boiata inaudita. Sai, si può. Le cattiverie dei cacciatori. Ma guarda, ci sono cacciatori perché... e cacciatori, ci sono le persone, non sono i cacciatori. No, tesoro. Ci sono persone, no, non cacciatori. Ogni persona è diversa. Non è che morta. I cacciatori sono tutti uguali. Ti sbagli. Amano chi è la natura morta. La natura amano la natura più di te. Un animale libero. Un animale libero, infatti abbiamo un sacco di gente che conosco io, cacciatori, amano gli animali liberi. Ogni tanto sparano a qualche animale nei posti dove si può fare, con le regole precise, senza sgarrare. Senza sì, è un po' un paradosso dire che amano gli animali. No, è la verità. Questo oggettivamente è la verità. Adorano, no, gli animali. Essere, però adorano. Oggettivamente è incomprensibile anche così. A me. Ti assicuro con tutto che, così. Che non sono contro la caccia. Ragazzi, ci sentiamo perché... domani, abbiamo un sacco di cose ancora da fare. Io devo andare a Tikidaka. Ciao, ciao. E chi se ne frega, non ce lo metti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente. Huawei, make it possible. Vi ha presentato La Zanzara.